Hola raga, hola raga, hola raga, hola raga, hola raga, hola raga, hola ragazza. Hola raga, hola raga, hola raga, hola raga, hola raga, hola raga, hola ragazza. Hola ragazza, sono contento, per scelta non mi pento. Felice anche lei così dice, stiamo bene, lo sento dentro. Insieme niente ci tiene o contiene la gioia che abbiamo. Stiamo per mano, ti tengo forte, grida la gente, non temo la morte. C'è l'amore che chiude le porte, che tiene vivo il cuore che batte. La fiamma accende, la notte distante, nulla di preoccupante. Pimpante, vivo di giorno, vedo sorrisi che passano intorno. Mi sento ricolmo di amore, nulla ci potrà separare. Ci conosciamo, noi ci fidiamo, riconosciamo il nostro valore. Tu nel mio cuore, sola puoi stare, piccola, grande, la mare. Il tempo a te voglio dare, dei mille problemi non vedi il colore. Il dolore che affligge il mio cuore vede la fine con il tuo calore. Dolce torpore nei giorni tristi, tempi mefisti. Se qualcuno pronuncia il tuo nome è il momento di tribolare. Chiunque sia comincia a pulsare col corpo colmo di paura. Scura e profonda che l'anima inonda, le sporche radici mi affonda. Comincio a tremare, manca respiro con l'anima vuota. Ora convivo senza motivo, di te mi fido. Ma l'angoscia colpisce la testa, calpesta le convinzioni, gioca le emozioni. Non sento le gambe, voglio piangere, nel mio intimo giù lacrimare. A pensare a quanto ti voglio, allo sforzo che ha fatto il mio orgoglio per farmi apprezzare, per convincerti di poterti fidare. Sai, mi accorgi, sono speciale e meritevole di amore. Ora un po' triste e solo, bisognoso del dono che solo chi ama sa dare. Cogli l'occasione, sai che ti posso amare. Tieni l'occasione, l'amor non fa scappare. È la mia occasione, sei per me speciale. La tua occasione, su di me tu puoi contare. Cogli l'occasione, sai che ti posso amare. Tieni l'occasione, l'amor non fa scappare. È la mia occasione, sei per me speciale. La tua occasione, su di me tu puoi contare. Viviamo un sogno che non può essere interrotto. Per fattori volto di ricordo, è troppo intenso il nostro rapporto. Preferirei non essere nato, vorrei essere morto. Se tutto finisse in un caso risolto, è fatto contorto, vienimi incontro. Se finisse per un altro, non sarei poi tanto contento. Se quando sei dentro un nuovo contratto ti accorgessi che è stato uno sbaglio, e mi è morto dentro nel sentimento, sarebbe distrutto dal tempo passato con te. Finito se bene l'impegno a tenerti con me. Ora che sei andata, lei calmerà l'anima svuotata. Mi riempirà il vuoto d'amore creato perché volevi cambiare. Se mi amo per quello che sono, è lei il dono che ho cercato e mai trovato. Perché non ero, perché è scappato. Tu raccorto, ho capito l'errore, vorresti ripartire assieme. Ma se l'amore di un altro trovato, io con te non potrò più tornare. Non posso colpire il suo cuore o rifare ciò che mi ha fatto male. Non voglio ferire, è un fatto di onore, piuttosto morire se proprio devo. Sono sincero, mi dispiacerebbe un fatto che tutto d'un tratto mi vorresti lasciare senza motivo così d'impatto. Lo dico perché ti rispetto, non è un patto, ma sono contento. So che mi ami, non arriveranno mai per noi questi giorni infami. Mi vuoi lasciare, ti lascerò andare, per un altro non senza lottare. Senz'altro sarà un errore, spiacente non so cosa fare. Prima di dire, prima di fare, pensa a quello che viene. Se ti conviene, se perdi un amore, attenta alla falsa occasione. Ci sono, ci sarò sempre, penso che per te, per me sia lo stesso. Lo dico adesso, non darmi del fesso, firmerei con te per la vita ogni stesso. Siamo giovani, d'accordo, ma si comincia a guardare intorno, a vedere la gente nel giorno in cui avrete figli, una famiglia. Vorrei condividerla con la persona che ti fa vivere felice e libera. Ti ama, ti senti vera, non falsità, solo vita sincera. Di amore, voglio farti sentire fiera di me. Finalmente non sento più la paura nera che su di me incombe. Cogli l'occasione, sai che ti posso amare. Tieni l'occasione, l'amor non fa scappare. È la mia occasione, sei per me speciale. La tua occasione, su di me tu puoi contare. Cogli l'occasione, sai che ti posso amare. Tieni l'occasione, l'amor non fa scappare. È la mia occasione, sei per me speciale. La tua occasione, su di me tu puoi contare.